Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buona serata e benvenuti a Radio Doc. Nell'arco dei millenni, le prostitute hanno assunto ruoli che andavano ben oltre la mera sfera della sessualità. Scopriamo, con il radiodocumentario di questa sera, come la prostituzione si è modificata nei luoghi e nel tempo, dalla Mesopotamia ai giorni nostri. Le prime testimonianze scritte sul mestiere più antico del mondo ci arrivano dalle civiltà mesopotamiche. Laggiù le prostitute godono di uno speciale status religioso e sono strettamente associate a Inanna, la dea della fertilità. La più famosa cortigiana dell'età del bronzo compare sulle pagine del Gilgamesh, il poema epico sumerico. Il protagonista del racconto si serve di una prostituta del tempio per far sedurre e fiaccare il suo nemico, Enkidu. Per 6 giorni e 7 notti, Enkidu giacque con la meretrice e la possedette. Dopo essersi saziato del suo fascino, volse lo sguardo al suo bestiame. Ammaliato dal fascino femminile, Enkidu non ha più le forze per continuare a cacciare. Tuttavia, l'esperienza sessuale è un'illuminazione. La donna è riuscita ad addomesticare il selvaggio. Questa intensa settimana d'amore, consumato nell'entroterra babilonese, mostra un approccio al tema fondato non sulla moralità e sulla legalità, ma sulla funzionalità. È una filosofia che trova la sua migliore esemplificazione nell'antica Grecia, la cui civiltà raggiunge l'apice circa 2500 anni fa. A differenza di molte civiltà dell'Occidente, in Grecia la prostituzione non ha una connotazione negativa. I greci considerano quella sessuale un'attività fondamentale che assicura benessere e vitalità. Dan Garrison, docente di studi umanistici. I greci sapevano bene che un uomo sessualmente eccitato è molto pericoloso e la prostituzione era una soluzione efficace per disinnescare l'eccesso di energia sessuale maschile. In Grecia il matrimonio è poco più che un contratto siglato per assicurarsi la discendenza. Dunque gli uomini cercano il piacere al di fuori del letto coniugale. E a loro disposizione c'è un mondo fatto di donne molto disponibili, pronte a esaudire tutti i loro desideri, ma solo in cambio di denaro. Atene era piena di postriboli perché la domanda era molto alta. Era una prospera città commerciale ed era famosa per essere una vera e propria fiera della prostituzione. Nella sua commedia Il Pentathlon, il greco Senarco dà una vivida descrizione di questi supermercati del sesso. Dopotutto i bordelli offrono donne molto belle. Si scaldano al sole, nude e disponibili, il seno scoperto, allineate in bella mostra. Si possono possedere tutte, senza paura, senza spendere troppo. Dall'alba al tramonto sono pronte ad esaudire ogni desiderio. Le donne dei bordelli e le passeggiatrici, celebrate da Senarco, rappresentano il gradino più basso della gerarchia sessuale. Sono chiamate porné, un termine da cui deriva la parola moderna pornografia. Il termine prostituta descrive bene questa categoria. Esistono molte fonti, in particolare alcune commedie, che spiegano perché una cortigiana sia meglio di una moglie. È facile. La merce è in mostra, dunque paghi sapendo cosa compri. Puoi scegliere in strada, non sono costose, e quando hai fatto, finisce lì. È lo scambio sessuale più semplice. Le porné non possono ricorrere a giornali o alle pagine gialle per pubblicizzare i loro servizi. Allora escogitano un metodo ingegnoso. Incidono la parola «seguimi» sulle suole dei sandali e così lasciano una traccia ai potenziali clienti. Nell'antica città di Efeso c'è un'impronta incisa sul selciato. Fornisce le indicazioni di un luogo dove passare momenti piacevoli. Forse era il miglior bordello della città, magari era molto grande, chissà. Il corrispettivo della porné nelle classi sociali più elevate è l'etera, la dama di compagnia. Le prostitute d'alto bordo si muovono negli strati più elevati della società greca. Spesso entravano nel giro come schiave. Col tempo, sfruttando la propria bellezza, l'esperienza accumulata col mestiere e un pizzico di astuzia, riuscivano a emanciparsi. Poi si mettevano in proprio accumulando fama e ricchezza. Dopo aver chiuso le mogli in casa, gli uomini si lasciano intrattenere dalle etere nel corso di sontuosi banchetti a base di sesso e alcol, i cosiddetti simposi. Ma le schiave di Afrodite, come vengono definite, non sono soltanto le protagoniste dei simposi, sono fonte di ispirazione per poeti, commediografi e artisti. La cortigiana Frine, considerata la donna più bella di tutta la Grecia, sarà la musa ispiratrice di uno dei capolavori del Rinascimento italiano, La Venere di Botticelli. Secondo il commediografo Ateneo, nemmeno il saggio Socrate è immune al fascino di queste affascinanti professioniste. Dopo aver sentito parlare dello spettacolare seno dell'etera Teodote, indescrivibile a parole, Socrate afferma: «Dobbiamo recarci personalmente a vedere questa donna. È impossibile valutarne la bellezza per sentito dire». Le etere fanno parte della tradizione artistica e letteraria dell'antica Grecia. Erano le modelle di scultori e pittori. Hanno ispirato i grandi filosofi nelle loro dispute sul concetto di piacere. Hanno esercitato un'influenza enorme sull'immaginazione e sul pensiero dei greci. Proprio come i greci, i romani hanno il culto della bellezza, ma a differenza degli ellenici, non riservano alle prostitute grande considerazione. Ruth Maso Carras, docente di storia medievale. Nei confronti della prostituzione avevano un approccio pragmatico. Non era affatto una professione di grande prestigio. Tanto per cominciare, molte erano schiave. I loro padroni non facevano altro che affittarle. Non lo consideravano degradante per le donne coinvolte. Dovevano fornire delle prestazioni come qualunque altro schiavo. La vita dissoluta dell'impero, con tutti i suoi eccessi, offre molte opportunità di lavoro per le lucciole. Le donne di vita si danno da fare ovunque, sulle gradinate del Circo Massimo, nelle terme, persino nei cimiteri. È in questo panorama che emerge la figura di Sant'Agostino, uno dei padri della Chiesa. All'inizio il santo non è affatto indifferente all'atmosfera che lo circonda, ma poi abbraccia il cristianesimo e decide di rinunciare ai piaceri della carne. Secondo Agostino, il sesso è giustificato solo dal sacro vincolo del matrimonio, ma proprio come i greci, considera la prostituzione qualcosa di necessario. Se si sopprimessero fra gli uomini le prostitute, la libidine metterebbe tutto sotto sopra. C'è una contraddizione implicita in queste considerazioni. Così, per un certo periodo, nel Medioevo, Chiesa e prostituzione stringeranno un'improbabile alleanza. Nell'undicesimo e dodicesimo secolo in tutta Europa sorgono centri urbani. Per le lucciole è una fortuna. Finalmente, a riparo dall'opprimente atmosfera dei villaggi, possono esercitare nel relativo anonimato. A Londra, come in molte altre città medievali, la differenza tra una professionista del sesso e una donna di facili costumi è praticamente inesistente. L'antico termine inglese whore definisce semplicemente qualunque donna sessualmente attiva. Nel frattempo, nella Chiesa è in corso un acceso dibattito. Quando una donna va considerata una prostituta? Secondo alcuni bastavano più di 3 partner, secondo altri più di 10.000. Non sembrava importante che lo facessero per denaro. Tuttavia, in molti scritti questo viene dato per scontato. Non a caso ci si chiede se sia opportuno accettare la donazione di una prostituta. E la risposta è sì, a patto che si mostri davvero contrita. Le prostitute penitenti vengono accolte nelle case della Maddalena, luoghi simili a conventi ispirati alla celebre figura del Vangelo. Maddalena era considerata la santa matrona delle meretrici. Su di lei circolano molti aneddoti a proposito della vita dissoluta che avrebbe condotto in gioventù e di come in seguito si sia ravveduta. Ed esistono parecchie storie anche sull'atteggiamento tutt'altro che pio di molti religiosi nei confronti di queste peccatrici. Si stima che nel XIII secolo i rappresentanti del clero costituiscano il 20% della clientela dei bordelli di Digione, in Francia. Dagli archivi dei tribunali ecclesiastici di qualsiasi città inglese emerge che spesso sono proprio frati e preti quelli accusati di avere rapporti sessuali con le prostitute. All'epoca uno degli insulti più in voga per una donna era «puttana del prete». I bordelli traboccano di clienti ovunque, in Francia e in Inghilterra, in Italia come in Germania. Anche San Tommaso d'Aquino, come in precedenza Sant'Agostino, considera le case di tolleranza un male necessario. In uno dei suoi scritti, Tommaso paragonava la prostituzione alla rete fognaria di un edificio. Toglietela di mezzo, diceva, e l'intero palazzo sarà inondato di escrementi. Non lo considerava certo un pilastro della società, ma riteneva che non se ne potesse fare a meno. Se le prostitute non se ne fossero fatte carico, il peccato avrebbe contaminato l'intera società, corrompendo molte altre donne. Alcuni padri della Chiesa decidono di sfruttare i vantaggi economici della prostituzione. A Southwark, in Inghilterra, alcuni dei bordelli più importanti sono sotto la giurisdizione del vescovo di Winchester. Shakespeare ribattezza le donne che ci lavorano oche di Winchester. I rapporti sempre più frequenti tra clero e donne di malaffare alimentano tutta una serie di soprannomi pittoreschi. Il bordello diventa un convento. Una tenutaria è la madre superiora e le sue dipendenti le suore o le sorelle. Nel 1517, con la riforma protestante, Martin Lutero si scaglia in egual misura contro laici e clero, rei di un'eccessiva tolleranza nei confronti del fenomeno. Nonostante la sua condanna, la prostituzione continua a diffondersi. Soltanto nel XVI secolo un'epidemia di sifilide spinge le autorità a chiudere molte case di tolleranza. Nel secolo successivo alla riforma protestante, centinaia di europei intraprendono la difficile traversata dell'Atlantico per raggiungere il Nuovo Mondo. Con gli emigranti sbarca anche la prostituzione. Radio Doc tra poco vi descriverà la vita delle prostitute negli Stati Uniti dal 700 ai giorni nostri. Restate con noi. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato alla storia della prostituzione. Siamo in America, all'inizio del Settecento. Nelle città delle colonie d'oltreoceano le donne scarseggiano e sono molto richieste. New York è il centro urbano che cresce con maggiore intensità. Patricia Klein Cohen, docente di storia moderna. Una parte consistente della popolazione era composta da giovani senza arte né parte. Molti di questi ragazzi accorrevano in città a frotte, nella speranza di farsi strada nel commercio. E analogamente nei grossi centri urbani arrivavano anche molte giovani donne. Ma a differenza degli uomini, le donne non hanno molte possibilità di impiego. Invece di lavorare nel settore dell'abbigliamento come domestiche, accontentandosi di due miseri dollari a settimana, molte preferiscono vendere il proprio corpo. Alcune riescono a guadagnare 100 dollari in una sola notte. Non credo proprio che queste ragazze di provincia andassero a New York con l'intenzione di prostituirsi. Ma una volta in città si rendevano conto di quanto fosse difficile guadagnarsi da vivere e capivano che vendendo il proprio corpo avrebbero potuto aspirare a un ottimo tenore di vita. Fu così che molti iniziarono la professione. Il fenomeno del sesso a pagamento si allarga a macchia d'olio. In tutta Lower Manhattan nascono più di 200 bordelli. Il quartiere di Corlears Hook, situato lungo l'East River, è talmente associato alla prostituzione che uno dei termini inglesi per le prostitute, hooker, sarebbe stato coniato in suo onore. Dopo essersi diffuse nelle periferie più malfamate della città, col tempo le case di tolleranza invadono ogni quartiere di New York e costituiscono un ottimo volano per il mercato immobiliare. Timothy J. Guilfoyle, professore associato di storia. Le villette a schiera cominciarono a diventare dei bordelli. Era più conveniente dare in affitto l'intero edificio a una tenutaria che poteva permettersi di pagare cifre 4 volte superiori a quelle di mercato. Ai vertici dell'industria della prostituzione newyorkese ci sono le Parlor House. Si tratta di case di tolleranza molto sofisticate, l'immagine stessa del decoro vittoriano. Attiravano una clientela esclusiva composta da facoltosi gentiluomini. Per una notte di piacere erano disposti a spendere anche 5 dollari, l'equivalente del salario settimanale di un qualsiasi operaio. Un'alternativa più popolare e chiassosa sono le body house, bordelli dove i clienti vengono ammassati come mandrie da mungere. La prostituzione è equiparata al vagabondaggio e quindi è illegale. Ma finché continua a produrre enormi profitti e tutti hanno il loro tornaconto, amministratori e polizia chiudono volentieri un occhio. La via principale di New York, Broadway, è il regno delle passeggiatrici. Per un rapporto sessuale bastano 50 centesimi. Ma chi sono gli uomini che si rivolgono alle belle di notte? Molti di loro sono esponenti di una sottocultura del XIX secolo, nota come Sporting Life. James R. Patterson, scrittore. Queste persone si dedicavano alla lussuria e al divertimento più sfrenato. Amavano mangiar bene, vedere concerti, spettacoli di varietà, combattimenti. Facevano sesso in balconata. I veri uomini dovevano vivere intensamente la vita notturna. The Sporting Life la definivano. Spesso questo clima di iperecitazione sessuale degenera nella violenza. Bande di esagitati irrompono nei bordelli, distruggendo ogni cosa e aggredendo le ragazze. Il più celebre caso di violenza ai danni di una prostituta è quello di Ellen Jewett. Nel 1836 la Jewett viene assassinata nell'elegante casa di appuntamenti di Rosina Townsend. Il principale indiziato è Richard P. Robinson, cliente e corrispondente epistolare della ragazza. Il processo si trasforma nel primo scandalo mediatico. L'assassinio di Ellen Jewett fa vendere migliaia di quotidiani, ma a New York lo scandalo non frena il dilagare del sesso a pagamento. Nel 1858 la prostituzione produce profitti per 6,3 milioni di dollari all'anno, una cifra superiore ai ricavi complessivi dei cantieri navali e dell'industria della birra messi assieme. La prostituzione in città è diffusa a tal punto che Walt Whitman scrive: su 20 giovani americani che vivono nelle grandi città o le visitano, 19 hanno una certa familiarità con i bordelli e li frequentano come clienti. Man mano che a New York cresce il numero di uomini che frequentano le prostitute, aumenta in modo allarmante anche la diffusione delle malattie veneree. In una forma o nell'altra ne è affetto il 75% dei maschi newyorkesi. La prostituzione resta illegale, ma continua a diffondersi. Spesso i proprietari di bordelli e le tenutarie corrompono poliziotti e uomini politici. Determinati a combattere questa corruzione dilagante, molti privati cittadini decidono di occuparsi personalmente del problema. Nasce così la Società per la Soppressione del Vizio. Nei 40 anni successivi, il leader dell'organizzazione, Anthony Comstock, diventerà la voce dell'America ben pensante. Nel 1900 la società si trasforma, si modificano la politica e il costume, e cambia anche la percezione della prostituta. Gli americani fanno fatica ad accettare l'idea di una giovane donna che decide di vendersi di sua spontanea volontà. È opinione diffusa che tutto ciò sia opera di forze oscure. E così l'immagine della schiava bianca sostituisce quella della peccatrice. Stando ai giornali, ogni anno 65.000 ragazze venivano rapite e vendute come schiave. L'opinione pubblica era indignata. Bisognava fare qualcosa per queste sventurate. Un'ondata moralizzatrice scuote la nazione. Il Congresso approva il Mann Act, una legge che rende illegale il trasporto delle donne oltre i confini interstatali per scopi immorali. Sono più di 1.500 gli uomini arrestati, tra cui Charlie Chaplin e il campione di pesi massimi Jack Johnson. Molti sono vittime dell'ambiguità del testo di legge. La tratta delle bianche ha catturato l'immaginario popolare. Ha ispirato libri, pellicole. A New York il film White Slave Traffic riempiva le sale ed è stato proiettato per 6 mesi. Ha incassato mezzo milione di dollari. Oltre ai libri e alle pellicole cinematografiche, il fenomeno dà vita a un nuovo organismo statale. Il Congresso autorizzò un'oscura agenzia governativa, il Bureau of Investigation. Interrogavano le ragazze dei bordelli per scoprire se erano state rapite. Col tempo, l'organismo si trasformerà nel celeberrimo FBI. A Manhattan, decine di case chiuse e bordelli sono costretti a cessare l'attività. Non saranno più riaperti. Dalle indagini emerge che il presunto fenomeno della tratta delle bianche in realtà è una leggenda. In una particolare città, solo 6 delle 1.106 prostitute interrogate affermano di essere state rapite. Tutte le altre sostengono di essere entrate nel giro a causa dei bassi salari e dei problemi familiari. Intanto il fenomeno continua ad evolvere. Grazie all'invenzione del telefono, molte donne possono lasciare i postriboli e gli angoli delle strade. Nascono così le ragazze squillo. Nel 1913 i bordelli hanno subito notevoli cambiamenti. Innanzitutto hanno cambiato nome, trasformandosi nelle cosiddette case d'appuntamento, e le ragazze sono diventate ragazze squillo. I loro affari si svolgevano principalmente per telefono. Polly Adler lavorava in una casa molto esclusiva di New York. Sul suo biglietto da visita c'era il disegno di un pappagallino e il suo numero. Con la Prima Guerra Mondiale, le case di tolleranza che un tempo sorgevano praticamente in ogni isolato della città si rifugiano nella clandestinità. Con l'avvento del proibizionismo, negli Stati Uniti la prostituzione sparisce dalle strade. Le drammatiche esperienze vissute nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale spingono i giovani reduci a vivere alla giornata. Il risultato è che molti di questi ragazzi cercano i servigi delle belle di notte. Nell Kimball, celebre tenutaria di New Orleans, scrive: «Lo avevo già notato. Il pensiero della guerra e della morte eccita gli uomini. Pensano solo a spassarsela. A volte non si tratta nemmeno di piacere. È come se soffrissero di esaurimento nervoso e che l'unica cura sia la presenza di una donna tra loro e il materasso». Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'America accantona le atmosfere dei quartieri a luce rosse e delle body house. Il sesso si consuma nelle camere da letto della periferia. Negli anni 50 la prostituzione scompare. Ora il sesso è quello consumato nelle case dei sobborghi con la propria consorte. Il massimo della trasgressione è farlo con la vicina sotto il tavolo da bridge. Nella New York degli anni 60, col trionfo del libero amore, anche la prostituzione rialza la testa. In difficoltà per il gran numero di appartamenti sfitti, i proprietari iniziano a concedere le loro case all'industria del sesso. Nel 1967 in città decade l'obbligo di licenza per l'esercizio dei massaggi, un'opportunità da cogliere al volo. Per più di 5.000 anni questa professione, che concilia pulsioni sessuali e senso degli affari, si è rivelata un avversario formidabile per organizzazioni come lo Stato e la Chiesa. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel martedì 30 settembre alle 23. Un ringraziamento in redazione a Laura Marchesi. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.